nuovo in diretta dagli studi di Via Zanardi dopo il GR di Radio Popolare di oggi, martedì 25 luglio. La rubrica Altri Suoni che porta a conclusione tutte le giornate ancora mancanti per quanto riguarda la realtà di Altri Suoni. Oggi protagonista una label indipendente che nasce a San Francisco, la Six Degrees Record, i sei gradi, famosi sei gradi di separazione, che però ha un motto molto importante che dice "Everything is closer than you think". Ogni cosa è più vicina di quanto tu possa pensare. Ha alcune particolarità questa label, a parte racchiudere insomma sonorità tra l'elettronica, l'ambient, suoni dal mondo e un avvicinamento ulteriore nonostante i gradi di separazione, appunto. Le attinenze è un, perdonate il termine, un Buddha bar raffinatissimo, ecco, di ricerca particolare. Sapete bene come alcune label hanno avuto in maniera commerciale, dopo l'epoca acid-jazz, di racchiudere queste sonorità. La Monte Carlo Night, ad esempio, ha avuto uno smooth jazz, un pop soul, certo, molto raffinato, ma sempre con dei percorsi, come ho detto in precedenza, commerciali, e va benissimo, ci mancherebbe, anzi qualsiasi realtà sia per diffondere la buona musica è gradita. L'importante è avere modo anche di alzare un pochettino l'asticella per quanto riguarda l'elettronica, suoni dal mondo, come ho detto in precedenza, la rassegna dei Buddha Bar, che è stata una roba veramente con dei costi per un CD arrivati alle stelle, ma che in realtà ogni tanto in questo calderone portava anche qualcosa di buono. La stessa Lounge Music con Thievery Corporation, Buzu Baju, tante altre sonorità, i Morrison, Krüderdorfmeister, che poi è più dub da un tempo. Comunque queste sonorità non sono unicamente un calderone di easy listening e realtà commerciali, sono anche qualcosa che hanno portato qualità all'interno dell'ascolto e capacità di incuriosire un pubblico attento e ricercare tra queste label, appunto, la Six Degrees. Iniziamo allora questa nostra mini playlist con un brano che ho già proposto e anche al di fuori della rubrica, perché secondo me, a parte la bellezza della voce di David Sylvian, il progetto è Tweaker, il brano è Linoleum, e tra il cantautorale e l'elettronica è qualcosa di veramente molto molto avvolgente. Oggi la Six Degrees Record, Linoleum, Tweaker, la voce di David Sylvian. and drum and bass di Tweaker con la voce di David Sylvian per questi 6 gradi di separazione tra il cantautorale, l'ambient, il drum and bass, l'elettronica, improvvisamente, come dice lo slogan della label stessa, beh, ogni cosa è più vicina di quanto tu possa pensare. Buddha Bar per quanto riguarda l'aspetto di cocktail music, ambiente elettronica e suoni dal mondo. C'erano i Monte Carlo Night per il jazz e poi ricordate i Caffè del Mar di José Padilla per la smooth house, la soul house. Ecco, erano diciamo dei ricettacoli per avere un'idea generale dove cadeva dentro ogni cosa, nel bene e nel male. Alcune realtà, alcuni aspetti sono da selezionare perché non tutto era unicamente una calappia soldi, assolutamente, anche se i costi, come ho detto, per quanto riguarda il prodotto originale, come deve essere, sapete come la penso, chi scarica musica scarica la musica, per cui insomma la possibilità di trovare una selezione musicale all'interno di questo mare magnum è quanto mai motivo di curiosità e di gusto. Ma a proposito di suoni, come ho detto da altrove, il progetto Banco de Gaia che sto mettendo e proponendo in questo momento, sempre per la Six Degrees, restando in ambito di sonorità elettronica, ambient e ethno music. spazi estesi dalla visione sterminata dall'abbraccio per la Six Degrees di Banco de Gaia a un artista scoperto dalla stessa produzione di questi sei gradi, la Six Degrees da San Francisco, dall'Africa, dal Mali, realtà musicale con i Griot nel blues, i Griot per meglio dire, diciamolo con la pronuncia giusta, Issa Bagayogo, dall'Africa, dal cantautorale alla tradizione, alle sonorità con l'intersezione elettronica, hanno diciamo molte attinenze con tutti i concetti che ho descritto in precedenza per questa etichetta. Issa Bagayogo, ce lo ascoltiamo, poi mettiamo magari un brano anche del progetto Euforia e poi andiamo in pubblicità. L'incontro tra il djembe, la cora, questi strumenti che nel griot africano hanno portato poi le origini del blues rivisitate con l'elettronica di Issa Bagayogo, la Six Degrees e i motivi di ricerca nelle caratteristiche che poi certo in seguito saranno commercializzate con sensazioni sonore, ma come può capitare in tutte le sensazioni musicali, importante è ricercare il gusto, come almeno provo a portare nella rubrica Altri Suoni, che sta avendo la sua conclusione per la giornata odierna con Euforia. Sì, no, non è un momento di autocelebrazione o di esaltazione. L'ultimo brano in playlist, abbiamo conosciuto la Six Degrees Record, etichetta indipendente da San Francisco, i suoni appunto che caratterizzano la label li abbiamo riassunti in questi quattro dischi e a breve avremo l'ultima puntata del Move to Groove. Ricordo il 333-180-9494 per la co-conduzione al Breakfast Club per questo imprevedibile martedì 25 luglio. Buon ascolto, a tra poco.